volte è più piacevole che parlare, vestita di nebbia. Della notte gli apparve aver ritrovato con le stelle ben ferme e brillanti nel cielo, e quelle sponde, e quella pace, e quel silenzio.